Sura delle tiranti fuori, capitolo 79 del sublime Corano. È stata rivelata alla Mecca, consta di 46 ayat ed è scesa dopo la sura An-Naba, la sura 78. Nel nome di Allah, il sommamente misericordioso, il clementissimo. Io, Allah, lo giuro sulle creature angeliche che nel momento della morte fanno uscire dal corpo l'anima dell'infedele con uno strappo violento e doloroso, e su quelle che estraggono con delicatezza, facendo uscire dal corpo nel momento della morte l'anima del fedele, e su quelle che solcano gli spazi come navigando, volando a eseguire gli ordini di Allah, e su quelle che superano in corsa, oltrepassando le altre che volano a eseguire gli ordini di Allah in gara di obbedienza tra loro, e su quelle che somministrano il destino, le creature angeliche che portano il decreto divino. Il giorno in cui risuonerà la risonante e al suono della quale seguirà il rimbombo, i cuori di coloro che rifiutano di credere saranno umiliati e i loro sguardi essi terranno bassi. Oggi argomentano: forse che noi siamo certi che di sicuro saremmo fatti ritornare nella condizione attuale? Forse che noi saremmo fatti risorgere quando saremo ossa marcite? Essi dicono: questa idea della risurrezione è una idea ingannevole. In verità sarà solo un grido ed essi saranno in superficie. Ti è giunto il racconto di Musa quando il suo signore lo chiamò nella valle di Tua? Va da Faraone, gli ordinò il suo signore. In verità egli ha oltrepassato i limiti, e digli: che ne diresti di purificarti affinché io ti guidi verso il tuo signore sicché tu sia timorato? Musa gli mostrò il segno grande, ma lui, Faraone, smentì, disobbedì, voltò le spalle, macchinò, poi radunò i suoi sudditi per fare una proclamazione e dire: «Il vostro Signore Altissimo sono io!» Allah lo punì come esempio per la vita futura e per la prima. In verità, in questo c'è una lezione per chi ha timore di Allah. Forse che voi siete più complessi quanto a creazione del cielo che egli costruì? È lui che lo ha innalzato e compiutamente rifinito. Egli fece buia la sua notte e il suo splendore, lo splendore notturno del cielo stellato, fu lui che lo fece uscire. Dopo ciò egli rese piana la terra e fece uscire da essa la sua acqua e il suo pascolo. Con le montagne egli la rese stabile a beneficio vostro del vostro bestiame, il dì nel quale At-Tammatul Kubra giungerà, l'uomo richiamerà alla mente tutto ciò che fece, e a chi guarda sarà fatto apparire l'inferno. Poi a colui che trasgredì e preferì la vita terrena sarà assegnato per sua dimora il fuoco infernale, mentre a colui che temette la comparizione davanti al suo Signore e proibì a se stesso le passioni sarà assegnato per sua dimora il giardino del paradiso. Ti faranno domande a riguardo dell'ora della fine del mondo chiedendoti: per quando è fissato l'evento? Tu non lo sai, soltanto il tuo Signore ne ha conoscenza. Tu sei solamente l'ammonitore di chi la teme. il giorno in cui essi, gli increduli, la vedranno, non saranno rimasti sottoterra se non lo spazio di una notte o di un mattino.